2024 2024 di Enrico Pagliarini. Iniziamo questa puntata di 2024 con alcune buone notizie. Oh, normalmente non abbiamo cattive notizie, però questa settimana entriamo subito nel merito di alcune notizie che arrivano da grandi aziende tecnologiche americane come Cisco ed Apple. Ad inizio settimana Cisco ha annunciato investimenti in Italia per 100 milioni di dollari nei prossimi 3 anni per finanziare startup attraverso Invitalia Ventures, che è il fondo del Ministero dell'Economia, fondo di Invitalia, ma anche con lo sviluppo di competenze digitali con un programma che si chiama Cisco Network Academy e anche con la ricerca, perché molti di voi sapranno che Cisco ha dei laboratori vicino a Milano, a Vimercate, Cisco Photonics. Altro annuncio lo ha fatto Apple, che ha annunciato la creazione a Napoli del primo centro di sviluppo app iOS d'Europa. Sarà probabilmente creato con l'Università Federico II per preparare i futuri sviluppatori di iOS. Comunque è indicativo ed è interessante che sia fatto nel Sud Italia, questa è sicuramente una buona notizia, e in Italia. E non ci sono indicazioni sugli investimenti. Vedremo se si sapranno nei prossimi mesi. Secondo le stime di Apple, l'ecosistema di applicazioni ha già creato nella sola Italia circa 75.000 posti di lavoro, e quindi la creazione di un centro che prepari i futuri sviluppatori vuol dire poi preparare nuovi posti di lavoro, magari nuove aziende. Non stiamo parlando di investimenti incredibili. Quando parliamo di aziende della Silicon Valley parliamo spesso di dimensioni che riguardano i miliardi. L'investimento di Cisco di 100 milioni in 3 anni non è che sia una cosa esagerata, quello di Apple a Napoli non sarà una cosa esagerata, però comunque registriamo queste buone notizie. In Italia era arrivato pochi mesi fa Tim Cook, che ha incontrato nuovamente Matteo Renzi e tra l'altro ha incontrato un po' come rappresentativa del mondo delle applicazioni di successo in Italia 5 fondatori di 5 applicazioni: Kurami di Roma, ricorderete anche una recente intervista che abbiamo fatto a Roberto Macina, Ganizza siciliana, Cuochi di Udine, Musement milanese e un'applicazione sarda, Dove Conviene, una piccola rappresentativa che ha incontrato Tim Cook. Anche Amazon ha annunciato investimenti per rafforzare la propria presenza in Europa, e devo dire che negli ultime settimane, negli ultimi mesi, anche altre aziende, soprattutto americane, hanno annunciato investimenti per l'Italia. Dicevo, è sicuramente una buona notizia, ma ci sono delle motivazioni un po' più vaste. Allora, sicuramente ci sono degli elementi concreti che rendono l'Italia un luogo interessante, come le competenze digitali che ci sono di buon livello, soprattutto nelle università. Da non scartare anche un altro aspetto, cioè gli stipendi piuttosto bassi, anzi direi molto bassi rispetto ad altri hub di innovazione, senza parlare della Silicon Valley dove gli stipendi sono stellari, ma ci sono altre aree d'Europa dove non ci sono competenze maggiori rispetto all'Italia, dove però gli stipendi sono molto più alti. Poi c'è sicuramente anche una buona immagine del governo e del Presidente del Consiglio, perché da questo punto di vista è una persona giovane nel panorama politico internazionale. Poi all'estero mica sanno che Renzi dice faremo la banda larga, poi invece i tempi si allungano di mesi. No, queste cose non passano all'estero. Ma c'è soprattutto un diffuso impegno delle aziende americane nei confronti dell'Europa e dell'Unione Europea in modo particolare, che prima di tutto sul fronte delle tasse, ma anche per il trattamento dei dati e della privacy, sta cercando di reagire allo strapotere delle società americane. Quindi ci sono molti fronti aperti dell'Unione Europea, e questo poi riguarda anche i governi. Non è un caso, ad esempio, questo impegno sull'Italia, in un paese dove per la prima volta in Europa Apple ha trovato un accordo con l'Agenzia delle Entrate. Tutte le cose si legano, e sicuramente quando il Presidente del Consiglio chiacchiera e discute con Tim Cook, tutte queste cose sono collegate, e non c'è dubbio che le aziende americane stiano arrivando in Europa anche per poi dire all'Unione Europea abbiamo fatto questi investimenti, quindi nelle trattative che stiamo avendo dovete tener conto anche di questo impegno. Viceversa, sicuramente l'Unione Europea sta dicendo a queste aziende: beh, non è che potete venire qui pensando solo di sfruttare il nostro mercato e magari alcuni accordi con i governi che sono stati fatti in passato, soprattutto sul fronte delle tasse, senza poi darci qualcosa in cambio. Sicuramente questo è un aspetto che va tenuto in considerazione quando si commentano queste notizie. Adesso abbiamo le nostre Digital News. Questa sera, in questa puntata di 2024, parleremo anche di diffamazione digitale e parleremo anche di una rete che sta per essere creata in Italia per la Internet of Things. Digital News. Iniziamo dalla realtà virtuale, che è uno dei grandi temi del 2016. Allora, secondo uno studio di CB Insight, nei primi 9 mesi del 2015 gli investimenti in aziende di realtà virtuale sono stati 408 milioni di dollari in tutto il mondo, contro i 145 dello stesso periodo 2014. Dal 2012 sono stati raccolti 1,5 miliardi di dollari e la metà, pensate 827 milioni, sono andati ad una sola azienda, Magic Leap. Come abbiamo detto più volte, non basta far uscire sul mercato i visori di realtà virtuale come Oculus Rift o HTC Vive, perché questi abbiano successo bisogna creare i contenuti e alimentare le start-up che stanno nascendo del settore. Ovviamente questi sono dati relativi allo scorso anno e al 2014, il 2016 è appena iniziato, quindi è ovvio che non ci sono ancora dati, ma è indicativo l'aumento degli investimenti verso questa direzione. WhatsApp ha annunciato di aver eliminato il dollaro di abbonamento applicato dopo il primo anno gratuito, che per noi europei erano 89 centesimi di euro. Il più grande servizio di messaggistica in tempo reale al mondo, che oggi conta quasi un miliardo di utenti e 2 anni fa è entrato a far parte di Facebook, ritiene che la decisione serva per accelerare l'espansione, soprattutto in quei paesi dove un dollaro è una cifra importante. A chi si chiede come WhatsApp farà soldi, la società risponde dicendo che innanzitutto è escluso l'arrivo della pubblicità e una delle strade potrebbe essere quella di vendere il servizio al mondo business, in particolare a tutte le aziende che devono risolvere velocemente i problemi con i loro clienti, tipo compagnie aeree, se stai per prendere l'aereo devi risolverlo subito il problema, oppure società telefoniche. Potremmo continuare con una lista molto lunga. Digital News. Secondo alcuni documenti relativi ad una causa legale in corso negli Stati Uniti, visionati da Bloomberg, Google avrebbe pagato ad Apple nel 2014 un miliardo di dollari per mantenere Google come motore di ricerca predefinito nei terminali iOS. Sempre secondo questi documenti citati da Bloomberg, Apple incasserebbe un terzo dei ricavi che Google fa attraverso i dispositivi Apple. Digital News. Veniamo ad una notizia, alcune notizie dall'Italia. Allora, alcuni fondi, tra cui Innogest, che è un fondo piuttosto importante in Italia, e Invitalia Ventures, hanno investito 1,5 milioni di euro in DI, una startup che ha sviluppato un dispositivo ottico compatibile con i principali smartphone che permette di effettuare esami della retina sfruttando la telecamera e il sistema di illuminazione dello smartphone. Si tratta del primo investimento del fondo Italia Venture 1, che è il fondo di venture capital gestito da Invitalia, che ha in dotazione 50 milioni di euro, uno dei principali in Italia. Ricordiamo che Invitalia, che abbiamo citato poco fa anche parlando di Cisco, è l'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa di proprietà del Ministero dell'Economia. Digital News. La RAI ha attivato le trasmissioni in alta definizione per RAI 4, che si aggiunge così ai primi 3 canali più RAI Sport, quindi per ora ce ne sono 4, sulla piattaforma satellitare TVSAT. Allora, RAI 4 sarà al canale 110, RAI 4 HD è visibile anche sulla piattaforma Sky al canale 104. Digital News. Chiudiamo parlando di soldi, di sistemi peer-to-peer per scambiarsi i soldi da smartphone a smartphone. Allora, Giphy, il servizio sviluppato da SIA per inviare e ricevere denaro in tempo reale dallo smartphone, ha superato a fine dicembre i 250.000 utenti attivi in tutta Italia. Al momento sono una cinquantina le banche che hanno aderito a questo servizio e alcuni istituti chiamano questa modalità e queste applicazioni con un proprio nome. Secondo me è sbagliato, perché così tutte le banche hanno una propria app, sembrano che siano tutte app diverse, in realtà sono tutte compatibili perché sono tutte basate su questo protocollo e questo servizio di SIA, però tanto per fare un po' di confusione, e le banche italiane sono sicuramente specialiste. Dunque, adesso parliamo di Internet of Things, la Internet degli oggetti, un tema di cui parliamo spesso, di cui si parla spesso e che è legato alla quarta rivoluzione industriale, altro tema di cui si discute, se ne sta discutendo anche a Davos in questi giorni al World Economic Forum, che appunto riunisce il mondo della finanza, della politica internazionale, dell'imprenditoria globale a Davos in Svizzera. E il tema portante di quest'anno è Manufacturing 4.0, l'industria 4.0, e la Internet degli oggetti è una parte di questo grande sistema. Oggetti che hanno a bordo dell'intelligenza, quindi ci sono microchip, veri e propri computer a bordo degli oggetti, che possono essere macchine industriali ma anche piccoli sensori, una videocamera. Oltre all'intelligenza ci sono sensori, e tutto ciò viene collegato alla rete internet. Se si animano questi oggetti e si connettono di modo che possano fornire informazioni ma anche ricevere informazioni, questa è una nuova dimensione che avrà sviluppi molto interessanti. Ci sono tantissimi studi che parlano di numeri incredibili, miliardi, posti di lavoro, e se uno guarda agli investimenti, beh, qualcosa sta già succedendo senza che spesso ce ne accorgiamo. Ci sono varie notizie. Una, ad esempio, di questa settimana riguarda una rete che sta per nascere in Olanda, che potrebbe nascere anche in altre parti d'Europa, una rete aperta, libera, decentralizzata, l'obiettivo di The Things Network, un altro modo per chiamare la Internet degli oggetti, una startup olandese che ha raccolto per il momento quasi 300.000 euro, quindi insomma non tantissimi soldi. È una startup olandese per creare appunto una rete open, aperta, disponibile a tutti, per collegare oggetti nella rete per la Internet degli oggetti. Ma c'è un progetto industriale invece interessante che già esiste, che già sta prendendo forma anche in Italia, e ne voglio parlare con Guido Barbieri, che è l'amministratore delegato di A-Towers. Benvenuto a 2024. Grazie. A-Towers è una società che si occupa di... siete parenti nostri perché vi occupate di broadcast, in modo particolare del mondo televisivo, giusto? Assolutamente sì, ci definiamo una tower company. A-Towers è la principale tower company italiana privata. Abbiamo un'infrastruttura fatta di 2300 postazioni, tralicci, diciamo così, sì, dedicati alla trasmissione broadcast televisiva e radiofonica. Ospitiamo anche Radio 24, ad esempio, e circa 1000 postazioni tralicci destinate all'ospitalità telefonica. E questo è il vostro core business attuale. Esatto, voi vi occupate di questo. Però, visto che il mondo sta cambiando anche molto velocemente, ci sono cose nuove. Avete creato una società che si chiama NetTrotter, utilizzando una tecnologia di una società che si chiama Sigfox. E adesso spieghiamo in quale mondo vi state espandendo e quale business sta crescendo. Che cosa fa NetTrotter? Allora, è una società che svilupperà, sta già sviluppando una rete dedicata all'Internet of Things, un particolare segmento dell'Internet of Things che è quello definito Low Power Wide Area. Adesso allora, spieghiamo è tutto. Un acronimo che mi rendo conto abbastanza complicato, però sostanzialmente l'Internet of Things è il mondo che consente di connettere tra di loro gli oggetti. Siamo tutti abituati a pensare agli oggetti collegati, connessi in rete, soprattutto pensando agli strumenti che sono nati per comunicare. Quindi una volta i computer, poi smartphone e tablet. Oggi sempre più sono direttamente collegati alla rete i singoli oggetti, e il senso è l'oggetto che è al centro di un servizio, che può essere reso con qualità maggiore o a condizioni di costo più efficienti. Questo è il senso della connessione degli oggetti. Gli oggetti connessi oggi sono in Italia tra i 7 e i 10 milioni, e le previsioni che abbiamo nel medio-lungo periodo hanno ancora un ordine di grandezza e ordini di approssimazione abbastanza elevati, però tutte le previsioni convergono verso un rapporto tra oggetti connessi e persone, un rapporto di 10-20 a 1, per cui pensando all'Italia, 60 milioni di individui, 1 miliardo di oggetti connessi nel 2025. che per chi progetta reti, infrastrutture, se non proprio dietro l'angolo, è poco dopo l'angolo. Sì, in prospettiva, certo, dovete ragionare nel medio-lungo periodo, esatto. Ma poi questo medio periodo fa presto ad arrivare. Quindi, ma cosa sono questi oggetti? Già oggi, diciamo, parliamo di strumenti industriali, parliamo di che cosa? Ma allora, oggi parliamo di machine to machine, sono oggetti collegati attraverso reti cellulari, ma nel corso degli anni assisteremo a una proliferazione di oggetti connessi. Faccio degli esempi che possono sembrare banali, ma rendono l'idea del perché. Sì. Il cestino dei rifiuti che manda un segnale quando è pieno, e quindi è un'informazione importante per la gestione dei rifiuti intelligenti, per gestire il ciclo dei rifiuti. Ah, quindi per non andare a vuotare un cestino che è ancora vuoto. Ah, certo. Piuttosto che la rilevazione di parametri di inquinamento ambientale, acustico o dell'acqua, sostanzialmente in tempo reale. Piuttosto che la misurazione di un contatore dell'acqua in tempo reale. Piuttosto che la localizzazione di un pallet della logistica, che esistono milioni di pallet in ogni paese in Italia, e sarebbe molto utile sapere localizzare con precisione i pallet. Beh, se noi guardiamo, adesso noi siamo nella sede del Sole 24 Ore, due cose mi vengono in mente mentre lei raccontava questi esempi. Le macchinette del caffè molto probabilmente sono connesse via rete cellulare, quando manca il caffè l'azienda sa che deve andare a caricarle, se questo avviene in tempi non fuori dal programma di ricarica. Le nostre antenne, visto che voi ci ospitate in alcune zone d'Italia, e immagino quasi tutte le antenne dei broadcaster, hanno una SIM dati che manda delle informazioni, ci dice se l'antenna funziona, la temperatura d'esercizio, se si spegne, che cosa sta succedendo, cose del genere. Quindi, corretto. Già molto. Ecco, lei ha detto che la vostra rete è una rete low power wide area, quindi a bassa energia e che copre aree molto molto vaste. Innanzitutto, prima di entrare in questo dettaglio, è una rete nuova? Sì, è una rete completamente nuova, alternativa alle reti cellulari. E quindi le reti cellulari oggi hanno un'enorme potenzialità in termini di capacità di trasporto dati, ma guardando in prospettiva i vari oggetti connessi potrebbero non adattarsi perfettamente a queste reti, perché le reti cellulari, a fronte delle grandi potenzialità, hanno un fattore abilitante che è la SIM, che comunque comporta un minimo costo di gestione, e poi sono concettualmente progettate con elementi di complessità che probabilmente mal si adattano a delle informazioni estremamente semplici come il cestino vuoto pieno o l'oggetto acceso spento. Ecco che da un po' di anni si stanno affermando delle tecnologie alternative alle reti cellulari, che però fino ad ora hanno avuto il grande limite dell'area di servizio molto ristretta. Ad esempio il Bluetooth o il Wi-Fi hanno un ambito di servizio che è la casa, l'ufficio. Solo negli ultimi anni è diventato l'ambito del quartiere o eventualmente della città, e solo da pochissimi anni, da 2 o 3 anni, esistono delle tecnologie, vengono definite cellular-like, che si prestano a sviluppare delle reti che hanno ambizioni nazionali. Ecco, okay. Noi vogliamo sviluppare una rete nazionale, cellular-like, che però ha le caratteristiche di low power wide area. Wide area significa che ciascuna delle stazioni può coprire un'area di servizio da 10 a 50 chilometri. Ah, quindi una bella area molto vasta. Molto vasta, e quindi mentre oggi le reti cellulari servono di un'infrastruttura di 10-15 mila siti tralicci sul territorio, questa rete potrà contare, per coprire il territorio, solo su 1000 postazioni. Quindi una scala diversa, e quindi un costo d'esercizio in prospettiva molto più limitato. Molto basso. Ma soprattutto low power significa che la tecnologia, a differenza delle attuali performance della tecnologia cellulare, ben si adattano a delle situazioni in cui il consumo d'energia è estremamente limitato, e quindi una batteria può durare non qualche giorno o meno di una giornata come gli oggetti cellulari che conosciamo, ma addirittura anni e fino a 10-15 anni. Questo è molto importante. Estremamente importante, perché se noi pensiamo alla Internet of Things, questi oggetti connessi molto spesso sono o abbandonati in luoghi dove non c'è energia elettrica o dove non è conveniente agganciare l'energia elettrica, quindi hanno una batteria. Se la batteria dura 10 anni, direi che uno sta tranquillo per un po' di tempo. Effettivamente questo è uno dei problemi anche della smart home, di batterie che durano poco. Sì, potrebbe essere in prospettiva, se pensiamo, pur con i margini di errore, i margini di approssimazione a cui accennavo prima, ma se pensiamo a 1 miliardo di oggetti connessi da qua ai prossimi 10 anni, è verosimile che una quota consistente di questi oggetti siano lontani dall'alimentazione elettrica o comunque sia con una necessità di consumo non tale da avere l'elettricità. Voi avete annunciato questa settimana un accordo con il Comune di Padova, che è il primo accordo che voi avete realizzato sul territorio italiano, e il Comune di Padova utilizzerà questa tecnologia per cominciare ad abilitare molti servizi, molti sensori all'interno del concetto di smart city, in questo caso appunto a Padova. È il primo accordo, ma questa rete quando comincerà a funzionare? Stiamo sviluppando la rete con tappe molto, molto ambiziose e veloci. Stiamo coprendo già Milano e Roma. Sia Milano che Roma saranno coperte da alcune decine di postazioni, non centinaia. E stiamo andando a coprire alcune città laddove c'è particolare interesse o sensibilità. Padova è un esempio, seguiranno altre città del sud Italia, a testimonianza del fatto, e questo devo dire, fa bene alla salute vedere che ci sono delle amministrazioni smart che si stanno impegnando per promuovere servizi. E tutto diventerà operativo in settimane, mesi? I primi test saranno operativi in settimane e poi alcuni sviluppi commerciali, non necessariamente rivolti alle municipalizzate o servizi ai cittadini, potrebbero diventare operativi nel corso dei prossimi mesi, di sicuro entro il 2016. Senta, questo è un servizio anche per i cittadini, cioè se io volessi, che ne so, in giardino avere dei sensori e collegarli con la vostra rete, lo posso fare o no? Assolutamente sì, quello che stiamo cercando di stimolare è quello che viene definito l'ecosystem, cioè la rete funziona se ai due estremi c'è un'antenna che riceve o trasmette e un sensore che trasmette l'informazione. In mezzo ci sono dei produttori di apparati che incorporano il chip e sistemi abilitanti che stanno iniziando a sviluppare dei servizi che dovrebbero essere molto presto disponibili anche al mercato consumer. Ecco, perché qui stiamo parlando di una tecnologia proprietaria di Sigfox, che è questa società francese che da anni sviluppa questa tecnologia. Sì. Quindi dovranno esserci, non so se ci sono già, degli strumenti, perché oggi uno può, soprattutto in ambito smart home, ma insomma in generale sul mercato, può comprare cose che vanno col Bluetooth, con il Wi-Fi, oggi c'è un'esplosione di cose Wi-Fi, e quindi immagino che poi ci vorranno sistemi che si agganciano a questa rete con questa tecnologia proprietaria. Sì, sempre facendo riferimento alla rete, ai due estremi della rete, l'elemento proprietario può stare nell'antenna oppure nel sensore attaccato all'oggetto. La nostra scelta è stata quella di andare verso un elemento proprietario nell'antenna, che dal nostro punto di vista è più aperto come sistema, e cioè mentre dal punto di vista delle reti è difficile che ci sia una competizione tra decine di reti, è invece auspicabile e logico che ci sia competizione tra decine o centinaia di produttori di chip e di oggetti con chip integrati. Mm-hmm. Quindi abbiamo scelto di star laddove è proprietaria la rete, e quindi dove ci sarà verosimilmente un... e ovviamente noi saremo i proprietari della rete nazionale, ma a valle ci sarà la competizione tra centinaia di chip e di oggetti. Immagino però che sia un servizio prevalentemente pensato per appunto o municipalità o città o industrie, business, no? Sì, anche se il consumatore finale ovviamente sarà un consumer in molti casi. Alcuni esempi, sia nell'agricoltura sia nel tracking di oggetti, il tracciamento degli oggetti, la bicicletta io ho subito 7 furti di bici a Milano. Ah, certo. Un semplice sensore che mi dice dov'è la bici, piuttosto che l'informazione rilevante che la bici dovrebbe star nel box, invece scopro che si sta muovendo, capisco che c'è un problema e attivo eventuali. Questo è uno dei tanti esempi possono essere. Certo, potreste fare un accordo con un produttore di biciclette e poi di conseguenza il consumatore finale beneficia. Questo, certo. Ma questa rete come fate a costruirla? Voi, certo, lei ci ha detto che avete più di 2000 postazioni con delle antenne già che servono per irradiare segnali televisivi, radiofonici, eccetera. Come fate a fare questa rete? Allora, sarà un complemento di nostra infrastruttura e di infrastrutture di terzi. Quindi, nel momento in cui dobbiamo coprire le città, ci appoggeremo alle infrastrutture dei nostri simili tower company a servizio delle società telefoniche. Quindi, recentemente Telecom ha scorporato una società che è Inuit, che gestisce l'infrastruttura telefonica. Wind ha fatto la stessa cosa con una società che si chiama Galata, Vodafone ha ancora una divisione interna, quindi ci appoggeremo ai tralicci dei telefonici per coprire le città. Nella seconda fase invece sarà importantissima la nostra infrastruttura esistente, che è principalmente rurale o localizzata sulle montagne. Sì, esatto. Quindi l'obiettivo... interessante questo, cioè voi andate a fare concorrenza, da un certo punto di vista concorrenza al mondo dei telefonici, degli operatori telefonici che stanno sviluppando tutti machine to machine proprio per la Internet of Things e usate però le loro postazioni. Vero, ma anche loro stanno cambiando, nel senso che gli operatori di telefonia mobile gradualmente stanno scorporando l'infrastruttura. Quindi l'operatore di telefonia mobile diventa un cliente dell'infrastruttura e noi allo stesso modo saremo parzialmente dei clienti. Sì, sì. È sicuramente molto interessante perché lei ci sta dicendo che la Internet of Things, al di là di tanti convegni dove ci viene detto che sarà il grande futuro, sta cominciando ad essere vera. Perché se voi costruite una rete al servizio di questa infrastruttura vuol dire che c'è interesse sul mercato. Poi lo vedremo nei prossimi mesi, però... Noi ne siamo assolutamente convinti, anzi è indicativo il fatto che un operatore molto legato a dei media tradizionali, come siamo noi, siamo un'infrastruttura a servizio della televisione, che ora è digitale ma esiste da decenni, e della radio, stia guardando con tanta attenzione a questo mondo che si sta evolvendo. Noi ci crediamo in maniera molto decisa. Certo, anche perché magari succederà fra molti anni, se tutto andrà su internet di broadcast, cioè il business del broadcast comunque si ridurrà, no? Siamo convinti di no, siamo convinti che i due business coesisteranno, quindi che la trasmissione lineare dei segnali convivrà con la trasmissione non lineare, cioè la fruizione di un palinsesto rimarrà viva per decenni dal nostro punto di vista, laddove c'è un valore editoriale, ma si affiancherà alla fruizione non lineare, cioè on demand. Sì. Senta, al di là delle... immagino che la Smart City sia uno dei luoghi dove questa rete potrebbe essere utilizzata. Ci sono degli ambiti industriali particolari a cui vi state rivolgendo o sono tutti uguali? Moltissimi. Faccio qualche esempio. L'ambito della sicurezza nelle case è uno degli ambiti che potrebbe essere molto interessante. L'antifurto tradizionale continuerà a funzionare col GSM, però potrebbe avere la necessità di un sistema complementare. Esistono gli inibitori di antifurto, che quindi mettono fuori gioco il tradizionale antifurto. Bene, la nostra rete permetterà di intercettare il segnale, la presenza di un inibitore vicino all'antifurto. Quindi è un esempio di complementarietà di servizi che viaggiano su reti diverse. Non le ho fatto una domanda su... Non dico sulla frequenza, non voglio andare così nello specifico, però questa rete sarà su frequenze per cui dovete comprare una licenza, perché sappiamo che gli operatori telefonici sono per anni sono state anche notizie di cronaca, hanno speso un sacco di soldi per la licenza per la telefonia mobile. Nel vostro caso? La scelta in Europa è di lasciare una frequenza non licenziata, che è la frequenza 868 MHz per gli addetti ai lavori, che rimarrà non licenziata. E quindi utilizzeremo libera e quindi utilizzeremo questa frequenza. Quindi domani un altro operatore potrebbe fare la stessa cosa su quella frequenza, così come il Wi-Fi è libero, no? In teoria sì, esiste una sorta di selezione naturale che abbiamo già toccato con mano e quindi è all'origine della nostra scelta. Le tecnologie che hanno la capacità di dar vita a delle reti nazionali sono, si contano sulle dita d'una mano. Sì, noi sì. abbiamo fatto una scelta chiara e dal nostro punto di vista la tecnologia Sigfox è quella che probabilmente avrà, anzi ne siamo convinti, sia la più robusta in termini di capacità di consolidarsi su quella frequenza. Questa tecnologia è molto adatta alla segnalazione tipica dei sensori, cioè pochi dati però in maniera costante, cioè non è che potrà essere utilizzata per fare streaming video questa rete. No, assolutamente no, ed è una delle chiavi del, diciamo, dell'equilibrio raggiunto. Sì. La maggior parte delle informazioni rilevanti dal punto di vista della segnalazione di semplice di oggetti sono pochi byte, e la segnalazione di acceso spento è un byte, la segnalazione della velocità di un oggetto fino a 250 km all'ora sono 2 byte, la segnalazione della temperatura 2 byte, la geolocalizzazione 6 byte, quindi c'è una quantità infinita, una numerosità di oggetti che richiede pochissimi dati semplicemente per segnalare, che si presta in maniera perfetta a questo tipo di utilizzo. Molto interessante, io la ringrazio per essere stato con noi, in bocca al lupo, ma immagino che il business crescerà. Le faccio un'ultima domanda sugli altri paesi, abbiamo citato l'Europa senza andare troppo lontano, questa tecnologia esiste anche in altri paesi? Sì, abbiamo di fatto mutuato un modello che si sta consolidando nei principali paesi europei, esattamente nelle stesse forme, quindi c'è un operatore che ha la licenza in esclusiva di questa tecnologia con l'obiettivo, impegno, di realizzare una rete nazionale. Quindi in Francia è stata sviluppata direttamente da Sigfox sull'infrastruttura della nostra omologa che è TDF, in Spagna è stata sviluppata sull'infrastruttura di Cellnex, che sono i nostri omologhi, in UK sull'infrastruttura di Arkiva, che è l'ex infrastruttura di BBC. Okay. E quindi è lo stesso modello che si sta replicando in Europa ed è un ulteriore elemento che ci convince che probabilmente abbiamo fatto la scelta giusta. Molto bene, grazie, a presto. Grazie a voi. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Vi ricordo che tutte le nostre interviste le trovate in versione integrale nella nostra versione podcast, quindi vi consiglio di abbonarvi attraverso un'app sul vostro smartphone, ce ne sono tantissime, se avete iOS probabilmente la più consigliata è proprio l'app podcast ufficiale di Apple, se no per Android ad esempio una che molti ascoltatori utilizzano e che apprezzano è Podcast Addict. Ce ne sono tantissime altre, quindi potete utilizzare tutte le app che volete, anche la nostra ufficiale, l'app di Radio 24, oppure andare sul sito internet per riascoltare la versione digitale del nostro programma, ripeto, le nostre interviste in versione integrale, magari quando siamo in onda abbiamo tempi un po' ristretti. Dunque adesso parliamo e ci occupiamo di diffamazione online, una cosa che forse una volta era riservata a pochi, adesso sta diventando sempre più popolare con la diffusione dei social network. Benvenuta Francesca Milano. Grazie. Francesca Milano lavora al Sole 24 Ore, è una delle social media editor. Che cosa vuol dire fare social media editor ad un quotidiano come Sole 24 Ore? Fondamentalmente vuol dire occuparsi dei social network, quindi dei vari profili che Sole 24 Ore ha su tutti i social network, dare notizie attraverso i social network e anche gestire un po' come dire i commenti, quindi quello che i lettori ci scrivono attraverso questi strumenti, Twitter, Facebook per esempio. Ed è uno strumento sempre più utilizzato anche dalla stampa. Assolutamente sì, sì. Poi tu non fai solo questo, magari, perché uno potrebbe dire, ah, bella vita, no? Divertente. Sarebbe bello, sarebbe sì, bello e sarebbe anche necessario, secondo me, ormai, però... Sì, questo è vero. Abbiamo anche con noi l'avvocato Carlo Melzi De Rille, benvenuto a 2024. Grazie, grazie mille. Allora, Francesca, abbiamo invitato un avvocato perché oggi vogliamo parlare di una cosa che diventa sempre più popolare, la diffamazione online. Fino a qualche tempo fa la diffamazione era un reato d'élite. Sì, sì, sì, sì, esatto. Era una cosa, diciamo, riservata per esempio alla stampa, se pensiamo, ma oggi i social network sono una forma di comunicazione quasi parificata alla stampa, per cui... Però sono in mano a tutti. Esatto, ma tutti non sanno che rischio corrono a usarli, a utilizzare una determinata serie di parole sui social, quindi esatto. Su Facebook, su Twitter o su altri mezzi. Allora, stiamo parlando di, grosso modo, sicuramente metà della popolazione che usa i social network, perché se parliamo di Facebook parliamo di quasi 30 milioni di italiani che lo utilizzano. Avvocato, diffamazione che cosa significa? Poi parliamo anche della diffamazione online, se ha delle differenze rispetto alla diffamazione classica, normale. Certo, allora partire dalla definizione è sempre utile, perché poi è più facile vedere se gli esempi ci cascano dentro oppure no. La diffamazione che cos'è? La diffamazione è l'offesa ad una persona assente rivolta a due o più persone. Quindi io devo parlare, scrivere e mandare un messaggio che sia offensivo nei confronti di un soggetto che non ho di fronte e devo rivolgermi ad almeno due persone. Allora, questo è chiaramente la situazione in cui ci si trova quando si scrive un articolo di giornale. Questa è la situazione in cui ci si trova quando si scrive un insulto sul muro. Ma questa è anche la situazione in cui ci si trova quando su un profilo Facebook, quando sul proprio account Twitter, si scrive un messaggio che può essere offensivo nei confronti di qualcuno. Quindi se io su Facebook scrivo che Francesca non capisce niente, magari in modo un po' più grave, con delle parole un po' più pesanti, commetto diffamazione. Non c'è dubbio. Online, dando per scontato che sul profilo Facebook di una persona gli amici siano più di uno, più di due. Esattamente. E lei non è assente in quel caso, perché il fatto di scrivere su internet significa che non stiamo uno di fronte all'altro. Esattamente. Quindi questa questione dell'assenza è importante perché rivolgere un messaggio offensivo ad una persona presente costituisce un altro reato che in realtà è stato depenalizzato da qualche giorno, che è l'ingiuria. L'ingiuria è meno grave della diffamazione, tant'è vero che l'ingiuria è stata depenalizzata, la diffamazione no. Perché? Perché la persona presente si può difendere, mentre la persona assente non si può difendere. Quindi ci sono milioni di persone che potenzialmente in questo momento diffamare. Stanno diffamando qualcuno sui social network e non lo sanno, o meglio, non sì. Se ne rendono conto. Sì, forse non se ne rendono conto. Sì, perché tu, Francesca, in effetti in questi giorni parlando mi dicevi tu non hai idea, in effetti io non avevo idea, di quante persone offendono, cioè usano sì. termini piuttosto pesanti online senza così assolutamente, perché ovviamente lo schermo del computer un po' protegge, quindi ci si sente al sicuro, ci si sente al riparo e ci si concede una libertà maggiore nell'espressione, commettendo appunto insomma reati come quello della diffamazione. Per esempio anche nei commenti, cioè per esempio su Facebook non è indispensabile che io scriva un post in cui diffami qualcuno, posso anche commentare il post di qualcun altro scrivendo nel commento qualcosa di un insulto a qualcuno, e anche il commento può risultare appunto diffamatorio, così come il retweet su Twitter. Anche il retweet? Sì. Cioè non sì. mi posso nascondere dietro il fatto che io dico no, io ho solo girato un'offesa che Pinco Pallo ha fatto. Di fatto hai niente. Amplificato un messaggio, quindi sei parte anche tu di quello, stai in qualche modo facendo da megafono. Interessante. Avvocato, poi nella pratica di tutti i giorni, questo fenomeno che abbiamo descritto si vede perché ci sono sempre più persone che si rivolgono agli avvocati perché sono stati diffamati online? Certamente, perché l'utilizzo di questi strumenti è ormai, come diceva lei prima, diffusissimo, e quindi esiste un flusso straordinario di notizie, commenti, frasi e quindi anche insulti e quindi anche messaggi offensivi a cui tutti quanti noi da una parte contribuiamo come scrittori e dall'altra parte riceviamo come utenti nel senso di lettori. E quindi leggendo commenti che moltissimi altri scrivono, si può rimanere offesi, e se si è offesi che cosa si fa? Si va da un avvocato e si chiede. Adesso non è il caso di fare degli esempi, perché si parla di insulti. Esatto, quindi evitiamo. Però fino a che punto una cosa può essere considerata un insulto o invece un semplice scambio di opinioni, magari anche un po' pesanti, tra persone che stanno commentando qualsiasi cosa su Facebook? Ma torniamo alla definizione. Allora, la definizione l'abbiamo detto cos'è, no? Allora, la diffamazione è l'offesa alla reputazione. Offesa alla reputazione cosa vuol dire? Beh, sicuramente vuol dire tutte le volte in cui si attribuisce ad una persona qualcosa di illecito, penalmente, anche da un punto di vista amministrativo. Ma non soltanto qualcosa di illecito, anche tutte le volte che si attribuisce ad una persona qualche cosa che da un punto di vista sociale è ritenuto non commendevole. Per esempio, se io dico che uno è un ladro, questo è chiaramente offensivo, ma se io anche dico che una persona è un mentitore, questa cosa non è illecita di per sé. Se io dico delle bugie, non è commetto un reato o un illecito, però sono una persona di cui non ci si può fidare. E il non potersi fidare di una persona è chiaramente lesivo della sua reputazione. Sì. Certo. Poi c'è un altro aspetto da dire, se ciò che si dice o si scrive è offensivo, ma è vero, è di interesse pubblico ed è esposto senza insulti gratuiti, è coperto da una giustificazione che è quella del diritto di cronaca. Diritto di cronaca, diritto di critica, se non sono fatti ma sono opinioni. Sì, sì. Questo per venire incontro, credo, alla sua domanda, no? Cioè, ci sono dibattiti particolarmente accesi in cui, discutendo di idee, non di persone, perché se discute di persone è facile andare nell'insulto e l'insulto è sempre bandito. Ma quando si discute in modo anche animato e si dice, non so, per esempio, che l'opinione sostenuta da Tizio è una sciocchezza, magari anche con termini più forti, questa è critica. Certo, invece è diverso se uno dice quello è uno stupido. Perfetto. Invece, esattamente questa è la differenza. Quello che hai detto è una stupidaggine. Perfetto. Invece di dire che sei uno stupido. Le parole sono importanti. No, infatti sono importanti. Come diceva un regista romano. Il fatto che tutto ciò che stiamo commentando avvenga su internet aggrava la questione. Perché se siamo in piazza, ci sono 4-5 persone, verba volant, qui mica tanto. Scripta manent. Aggrava la questione. Aggrava la questione da un punto di vista normativo, prima di tutto, perché senza annoiare, ma la diffamazione commessa a mezzo internet è una diffamazione aggravata, perché l'articolo 595 codice penale, che punisce il reato di diffamazione, al comma 3 prevede un aggravante, quindi una pena più grave, se viene commessa la diffamazione viene commessa con un qualunque mezzo di diffusione. E internet è certamente un qualunque mezzo di certo, anche molto potente. Facilita il lavoro della giustizia, cioè se io sono in piazza e dico che Francesca non capisce niente, insomma, dopo andiamo in tribunale e potrei trovare testimoni che dicono: "Bah, io però non ho sentito che lui ha detto questa cosa". Su internet rimane scritto, però io potrei anche chiamarmi Paperino 58. Quindi cosa succede? Allora, questo fa parte, come diceva prima Francesca, delle false impressioni che ogni tanto il web genera, no? C'era una vecchia vignetta sul New Yorker, se non mi ricordo male, con due cani, uno alla tastiera e l'altro a terra, e il cane alla tastiera dice: "Sul web nessuno sa che tu sei un cane". E quindi l'impressione che tu hai è quella di poter essere qualcuno di totalmente diverso, a tal punto da poter essere del tutto anonimo. Questo in verità non è così. Perché? Perché forse è molto più facile che rimanga anonima la mano che su un biglietto scrive un insulto e lo appiccica su un muro, rispetto ad una persona che magari con un account coperto da un nome di fantasia, ma scriva lo stesso insulto, perché quello che succede in rete, a meno che chi stia agendo non sia un hacker professionale, è difficile che non rimanga tracciato, sì, soprattutto per i potenti mezzi dell'autorità giudiziaria. Sì, sì, quindi se si vuole trovare una persona, la si trova. Anche se, che ne so, in casa ci sono 10 persone, però poi facendo tutta una serie di correlazioni su quello che scrivi, eccetera, eccetera. Poi e fare le indagini. Sì, fare sì. Le indagini, se c'è un reato, fare le indagini è compito degli inquirenti. Nel fare le indagini c'è anche quello di scoprire, non soltanto di capire se un reato è stato commesso, ma nell'ipotesi in cui si ritenga che un reato è stato commesso, capire chi l'ha commesso. Se uno mi offende, posso prendere dei soldi o viene, questo si fa... No, giorni di galera direi di no, ormai bisogna ammazzare una persona. Allora, giorni di galera è un po' difficile per le diffamazioni, anche perché la pena, è vero che esiste una pena detentiva, ma è una pena alternativa rispetto alla pena pecuniaria, cioè reclusione o multa. No, comunque se io voglio sapere se qualcuno mi offende, se ci posso guadagnare qualche cosa, oppure posso solo godere del fatto che la giustizia lo punisce. No, no, certo, perché ci sono due aspetti. Da una parte l'aspetto penale, cioè la pena per aver commesso qualcosa di illecito, dall'altra parte il risarcimento nei confronti della persona danneggiata causato dal reato. E cosa succede? Se invece di essere io a dire qualcosa di su Francesca, Francesca scrive Pagliarini è un coglione, cosa posso fare io? Beh, una bella querela. Ecco. Oppure un bell'atto di citazione civile. Ma quali sono le strade? Si possono fare entrambe? Sì, le strade sono due, sono alternative e sono percorribili entrambe. Da una parte si va da un pubblico ministero chiedendo che chi ha commesso il reato venga punito, e se il processo va avanti si può saldare l'azione civile a quella penale chiedendo risarcimento. Oppure si va direttamente dal giudice civile e si chiede che il giudice civile, che non può irrogare una pena perché è civile, però verifichi se è stato commesso un reato incidentalmente, e se è stato commesso un reato liquidi il danno. In realtà online una differenza tra queste due strade c'è. Perché? Perché, come dicevamo prima, se io faccio causa civile, devo sapere a chi notificare l'atto di citazione. Quindi se l'account è Paperino78 e io non so chi si nasconde dietro Paperino78, non so chi notificare. Certo. Invece posso rivolgermi all'autorità giudiziaria penale, fare una querela, e tra i poteri dell'autorità giudiziaria penale naturalmente c'è anche quello di andare a scoprire chi c'è dietro Paperino 78 e perseguirlo se ritiene che sia stato commesso un reato. Sì, quindi dopo sono affari della giustizia andare a scoprire Sono affari della giustizia che ricadono molto sui miei se io sono la persona danneggiata. Sì. Però sì, è compito della... Adesso, capisco che sia difficile, ma fatto cento il numero di querele che vengono fatte, quante sono quelle che vanno a buon fine? E guardi, mi fa una domanda veramente a cui è davvero impossibile rispondere. Bisognerebbe avere una sfera di cristallo. C'era molto tempo fa un bel libro di Luigi Ferrarella che si chiamava Fine Pena Mai, e che parlava del mondo della giustizia e dei numeri della giustizia. Lui stesso, che pure è informatissimo, diceva che... Sì. No, ma la domanda è facile ottenere un risarcimento essendo... cose che rimangono scritte sui social network, su internet, o è comunque una strada complicata? Allora, la strada è un po' complicata per una ragione molto concreta, e cioè perché, basta leggere i giornali, lo stato della giustizia italiana, per colpa di nessuno, ma è uno stato di non particolare salute, perché le procure sono piene di lavoro, perché anche i tribunali civili sono pieni di cause, quindi il rallentamento è una cosa... Allora, Francesca, mi verrebbe da dire, non è detto che chi offende sul web, poi tu magari ci racconti anche qualche cosa che succede, che tu vedi tutti i giorni, non lo sappia. Magari lo sa, però sa che i tempi della giustizia sono così complicati, dice, esatto. Tanto nessuno mi fa niente. Sì, esattamente. Probabilmente la gente si difende pensando questo, che i tempi sono lunghissimi, non vale la pena, ci sono dei costi, chissà quando vedo la sentenza, e quindi insomma alla fine mi scoraggia dall'intraprendere un'azione penale. Sì, e viceversa chi offende potrebbe anche saperlo e dire vabbè, ma tanto... Esatto. Però probabilmente molti non sanno proprio di... No, esatto, molti non sanno di offendere, ma una cosa che volevo sottolineare, perché abbiamo parlato di social network, però dobbiamo un po', come dire, parlare anche di altre cose, come per esempio WhatsApp. WhatsApp non è un social network, ma è un'app che permette di comunicare via messaggi, non solo uno a uno, ma anche con un gruppo, quindi insomma a più persone, e anche questo strumento è potenzialmente uno strumento attraverso cui si può diffamare qualcuno. Quindi attenti anche ai messaggi su WhatsApp, ai messaggi nei gruppi di Messenger o insomma tutto quello che è comunicazione. Quindi dove ci sono almeno due o più persone. Sì, esatto, esatto. Quindi nella chat, cioè tra me e te, no. No, nella chat tra me e te no, perché appunto potrebbe al massimo configurarsi l'ingiuria, che però abbiamo detto è stata da qualche giorno depenalizzata, per cui no. Però se tu, per esempio, ma adesso magari chiediamo all'avvocato, facessi uno screenshot di una chat privata, quindi una foto di uno scambio tra me e te privato, e lo mettessi, lo postassi su Facebook, su Twitter, su altri mezzi, allora sì, no? Certo, poi lì dipende che cosa c'è scritto nel messaggio. E dipende a chi viene attribuita la responsabilità, perché se la chat è tra me e Francesca e io scrivo sulla chat un messaggio offensivo nei confronti di un terzo, Francesca fa lo screenshot e lo mette sulla sua pagina Facebook, e beh, sarà però poi Francesca che ha la responsabilità di avere commesso l'azione. Ah, certo. Quindi attenti non soltanto a cosa dite, ma anche a chi lo dite. Esatto, no, ma è veramente si aprono una serie, sì, di... Se io mando una mail, che è uno strumento che è destinato ad una persona singola, ma magari siamo in 10 davanti ad uno schermo di un computer e io faccio vedere questa mail e in questa mail c'è un'offesa, è diffamazione? Allora, è un po' difficile che venga riconosciuto il reato, perché chi ha scritto l'email, se l'ha inviata ad un destinatario solo, dava per scontato che solo quel destinatario leggesse il messaggio, e quindi se abbiamo detto che la diffamazione è l'offesa ad una persona assente rivolta ad almeno due persone, la mail rivolta ad una persona sola è un po' difficile che costituisca diffamazione. Poi la casualità per cui dietro allo schermo ce n'erano quattro è un po' difficile attribuirla a chi ha scritto l'email. Sì, la giustizia ha ormai stabilito tutti i paletti necessari affinché sia chiara questa materia, o siamo ancora agli inizi? Ma in realtà facciamo una piccola distinzione. Di diffamazione si parla da sempre. Certo. Sull'online il legislatore è sostanzialmente fermo. La giurisprudenza si sta muovendo. Per esempio, dico una cosa sola. Ci sono sola. Delle leggi specifiche su internet, ma non precisamente su questa materia. No. Su internet sì, ce ne sono, però sulla diffamazione online no. Quindi è la giurisprudenza che detta le regole. È la giurisprudenza che detta le regole. Per esempio, una regola, ne citiamo veramente soltanto una, per la stampa esistono delle regole particolari, banalmente la responsabilità per omesso controllo del direttore, le regole previste per la stampa, le regole si dice in malam partem, cioè i reati, le aggravanti, tutto ciò che tende a punire o aggravare le pene previste per la stampa, come classicamente la responsabilità del direttore responsabile, a internet non si applicano. Sì, e questo è stata la giurisprudenza a deciderlo. È stata la giurisprudenza a deciderlo. Certo. Sì, ma in generale, insomma, rispetto alla domanda che facevo prima, l'avvocato si trova una serie di paletti abbastanza chiari, o ci si sta muovendo no, in è tutta una materia da inventare. Questa è una delle ragioni per cui devo dire il diritto non è entusiasmante, il mio mestiere non è un mestiere tra quelli che uno da bambino sogna fare, però almeno in questa materia è stimolante sotto un certo profilo. Perché? Perché è un campo ancora da arare. E quindi le domande che ci facevamo prima, ma il retweet è diffamazione? Sì, no, non c'è una sentenza della Cassazione, allora si discute. E allora questo è, usando molte virgolette per le ragioni che ho detto prima, può essere divertente. Quindi, ricapitolando, diamo due o tre consigli. Allora, il primo consiglio è attenzione a chi retweetta, che cosa retweetate, ad esempio. Esatto. Attenzione a quello che scrivete. Non pensate, certo, che scrivendo un commento non state facendo, insomma, è equiparato a un post, quindi non è che il commento sia meno grave di un messaggio. Attenzione appunto alle chat di gruppo, alle conversazioni di gruppo attraverso tutti gli strumenti internet, sì, o smartphone, quello che si vuole. E soprattutto invece questo per chi scrive, per chi si vuole difendere, sappiate che sì, la giustizia è lenta, ha una serie di problematiche, però ci sono degli strumenti, certo, attraverso i quali ci si può difendere, certo, se si ritiene di essere stati danneggiati. Immagino che ci siano molti genitori che si imbattono in questo problema, perché magari i ragazzini si offendono a vicenda senza stare tanto a pensare, no? Sì, devo dire la verità, nella mia esperienza ho qualche caso, ma poi alla fine sono tutti casi, almeno, però questo è veramente soltanto il mio piccolo punto di vista, sono tutti casi che sono stati in qualche modo ricomposti, come devo dire, succede e sarebbe anche opportuno che succedesse in, non voglio dire la maggior parte dei casi, ma in molti casi. Quando si tratta di diffamazione, di ingiuria, teniamo presente che sono tutti, almeno diffamazione o ingiuria non è più un reato, ma reati perseguibili a querela. Cosa vuol dire? Vuol dire che se la persona offesa è la persona che ha commesso l'offesa, si mettono d'accordo, il processo finisce. Sì. Quindi si abbreviano i tempi e soprattutto si alleggerisce il peso sui tribunali. E si trova forse anche una soluzione, sì, che accontenta tutti. Magari non è... quello che dicevano i vecchi avvocati, che una cattiva transazione è meglio di una buona sentenza. E con questo noi concludiamo. Grazie Francesca, grazie, grazie all'avvocato. Grazie. Adesso cambiamo argomento, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Questa settimana ho incontrato Alex Mackenzie Torres, che si occupa del marketing internazionale globale di Moovit, che è una delle più diffuse app per il trasporto pubblico. Se vi muovete spesso in Italia, all'estero o anche all'interno di una stessa città italiana, beh, è sicuramente molto utile utilizzare sul proprio smartphone un'applicazione per suggerirci, per aiutarci nei nostri movimenti. Un'applicazione che ci dice: prendi l'autobus Tal dei Tali fino a Piazza Garibaldi e dopodiché cammina per 100 metri per quella via. Oppure un incrocio di mezzi pubblici, prendi l'autobus, poi la metropolitana, il tram, cammina, bla bla bla. Ci sono varie applicazioni, se scrivete trasporto pubblico sul motore di ricerca negli App Store, sia su Google Play sia su iOS, su App Store, trovate alcune proposte. Molte proposte arrivano dalle società che gestiscono il trasporto pubblico, ma qui c'è uno dei primi problemi. Ogni città ha la propria società e la propria applicazione. Uno cambia città e deve cambiare applicazione. Allora, ci sono delle applicazioni che stanno cercando di integrare tutti questi servizi. Una delle più diffuse è Moovit, scritta Moovit con due O. Alex Mackenzie ci spiega di che cosa si tratta. Moovit è un'app gratuita che ti permette di ottenere tutti i risultati, tutti i percorsi a livello locale. Diciamo che ti trovi a Milano, vuoi andare a qualsiasi posto in città e ti permette di sapere le diverse modalità di trasporto locali che sono disponibili per l'utente. Perché non utilizzare altre mappe che comunque mi danno dei suggerimenti sui mezzi pubblici, oppure le app? Ad esempio, noi siamo a Milano, c'è una fantastica app di ATM che ti dice un sacco di cose sui trasporti pubblici. Noi mettiamo tutte le maniere di arrivare a qualsiasi posto in città, cioè diciamo il bus, diciamo il trenino, cioè il metropolitano, cioè qualsiasi modalità che sia disponibile sulla città, noi la mettiamo insieme sul percorso e i risultati per l'utente finale. Eppure noi siamo disponibili in tante altre città italiane che permetteranno ai nostri utenti pure di usarle, eppure al di fuori dall'Italia. Siamo già disponibili in 60 paesi e in più di 750 città. I dati che voi utilizzate da dove arrivano? Dove li prendete? Fate degli accordi specifici o sono open data, come si dice spesso? Se è disponibile su open data, noi lo prendiamo su open data. Se non è disponibile su open data, lo prendiamo con l'autorità locale e facciamo gli accordi. E ci sono a volte delle situazioni che non neanche c'è l'open data, neanche c'è l'autorità locale questi dati. In questo senso noi abbiamo la nostra comunità di utenti che ci aiutano a mappare tutte le città, e così possiamo lanciare. E piuttosto sono almeno 30-40% di tutte le città che abbiamo al mondo. di dati che vengono forniti dagli utenti? Corretto. Sì. Senti, come fate i soldi? Se fate i soldi? Noi ancora non stiamo facendo soldi. Noi il modello che stiamo seguendo è un modello, come diciamo in inglese, B2C. Ma in questi momenti stiamo provando di fare diversi test in diversi paesi per trovare questa maniera di fare soldi in una maniera che sia ottima per l'utente finale. E quali sono queste modalità che state provando? Ci sono diverse opzioni. Una sarebbe quella del taxi, integrazione di taxi, un altro sarebbe il pagamento con il cellulare. O ci sono altri che siamo ancora, per esempio in Israele abbiamo già lanciato la possibilità di fare il carpooling, che è un'altra modalità che potrebbe essere giusta per certi mercati. Quindi potreste fare concorrenza a BlaBlaCar, ad esempio? Non so se BlaBlaCar, perché questo dipende di ogni paese, dipende da ogni circostanza, perciò non saprei dire. Senti, tu hai citato Israele, perché la società nasce in Israele. Israele è uno degli hub di innovazione. Molte startup di Israele sono finanziate da venture capital internazionali oppure addirittura sono state acquisite da società internazionali. Voi avete preso quanti soldi fino ad oggi? Molti soldi. Sì, più di 80 milioni di dollari, ma i nostri investitori sono, stiamo parlando di BMW, BMW. Parliamo di Nokia, pure parliamo di Sequoia Capital, che è un gruppo investitori degli Stati Uniti. Non è solo, noi abbiamo pure la sede ad Israele e pure a San Francisco, abbiamo due sedi, perciò siamo un'azienda internazionale. Se tu giri anche molto il mondo, se tu dovessi fare una mappa, a parte Silicon Valley, di cui sappiamo moltissime cose, dei centri più interessanti per l'innovazione, città o aree del mondo? Londra, Giappone, Nord, Svezia, Finlandia, ci sono diverse aziende interessanti. E poi ci sono altri fuochi, per esempio a Milano ci sono diverse startups che sono assai interessanti, stanno facendo un bel lavoro, pure a Torino. Il Nord Italia sta facendo un bel lavoro pure in certe startups. A proposito di trend tecnologici, voi vi occupate di trasporto e sicuramente il trasporto, abbiamo visto negli ultimi anni, ci sono un sacco di applicazioni, di app per smartphone che sono focalizzate sul trasporto. Perché è interessante il trasporto? Poi parliamo anche di altri settori. Prima perché è un interesse fondamentale per gli utenti che abitano nelle nostre città italiane. La gente deve andare da un posto a un altro e deve trovare l'app che sia migliore per i loro problemi, per i loro interessi. Dopo perché il trasporto locale sta diventando una questione più problematica, perciò la gente è più interessata di ricercare oppure di trovare altre possibilità. Cioè tu dici è un problema comune di milioni di persone. Sì. Per esempio, ma non è solo dei milioni di persone, noi abbiamo già lanciato in certe città che non hanno 1 milione di persone, 2 milioni di persone qua nell'Italia, ma 300.000, 200.000, cioè noi ci focalizziamo in qualsiasi città che sia o che abbia il bisogno di un app di trasporto locale. Quali sono gli altri settori dove vedi che c'è interesse o quelli che ti piacciono anche di più? Il settore della salute. Molto interessante perché sempre la ricerca sulla salute è stata assai focalizzata sull'università oppure sugli ospedali o su certi centri tecnologici, ma in questi 5-10 anni si possono pure controllare più startup se stanno facendo sviluppo della tecnologia della ricerca della salute. Controlliamo pure le startup stanno facendo ricerca sul cromosoma, altre che stanno facendo ricerche su certe malattie. Questo è molto interessante perché io ho la mia opinione è che queste startup potrebbero pure trovare certe soluzioni che nell'altro caso ci metteranno almeno anni o decenni. Con Concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per la vostra attenzione, per quello che dedicate, il tempo che dedicate a 2024, sia che facciate sport come molti dei nostri ascoltatori, perché corrono o fanno altri tipi di sport mentre ascoltano 2024. Devo dire che nelle ultime settimane stanno salendo in classifica quelli che fanno le pulizie, quindi puliscono casa o lavano piatti, quindi vuol dire che ci sono anche molti uomini, perché buona parte del pubblico di 2024 è maschile, e comunque quelli che mi hanno scritto sono uomini che dicono facciamo le pulizie in casa. Quindi non è vero il mito che solo una parte della famiglia faccia le pulizie. Dunque concludiamo questa puntata di 2024 ricordandovi che ci potete raggiungere scrivendo a 2024@radio24.it. Abbiamo anche una pagina Facebook dove potete scrivere le vostre opinioni, dare anche suggerimenti per puntate di 2024. Torniamo la prossima settimana, sempre il venerdì alle 22, domenica alle 13.30, oppure naturalmente nella nostra versione podcast con tutte le nostre interviste in versione integrale. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana. 2024. 2024. 2024.